il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Le città venete si confermano soffocate dal particolato atmosferico. È questo che si legge in questi giorni in testa al sito internet di Lega Ambiente Veneto. Stiamo parlando ovviamente dei dati relativi alla qualità dell'aria, in particolare delle nostre città. Per saperne di più abbiamo oggi ospite proprio il presidente di Lega Ambiente Veneto, Luigi Lazzaro. Benvenuto. Buongiorno. Come dite voi, sul vostro sito è un'ennesima bocciatura per la qualità dell'aria della nostra regione? Beh sì, diciamo che anche 2014, in una prima analisi che abbiamo fatto rispetto ai dati, soprattutto al PM10, il particolato, insomma quello più famoso, più conosciuto, che è quello che crea danni alle vie respiratorie, anche con problemi cronici, anche per il 2014 abbiamo visto oltrepassare la quota di 35 giorni, che è il limite normativo inderogabile di sforamento di particolato nell'aria, e quindi anche 2014 anno amaro, anno di inquinamento atmosferico con gravi danni per la salute. Nonostante ci sia stato un anno particolarmente piovoso, per cui questo dovrebbe aver favorito questi i dati, diciamo, quindi una minor presenza di particolato. Sì, diciamo che quest'anno è stato un anno durante il quale, come dire, abbiamo avuto un effetto benefico delle precipitazioni. Ha piovuto molto e di questo, dal punto di vista della salute, dobbiamo giovarcene, proprio perché ovviamente la pioggia e le precipitazioni aiutano al depositarsi delle particelle, appunto, del particolato atmosferico che non sta in aria ma si deposita a terra, e quindi questo leggermente migliora la qualità dell'aria. Non è bastato una grande annata piovosa, e questo continua, insomma, come dire, a dimostrarsi uno dei limiti nel nostro territorio, soprattutto in pianura padana. Non parliamo solo del Veneto ovviamente, ma di tutta l'area padana, che è la parte più soggetta a una stagnazione dell'aria e quindi a creare problemi di mantenimento del particolato, dell'inquinamento atmosferico in maniera con un'intensità elevata, e quindi purtroppo tutti ne soffriamo. La cosa interessante da dire è che questa incidenza delle precipitazioni ce la ritroviamo, e lo stiamo analizzando, l'abbiamo analizzato anche con il nostro ultimo comunicato stampa, ce lo ritroviamo negli anni, cioè è un'evidenza abbastanza, come dire, costante quella che quando piove il particolato diminuisce, e purtroppo ci troviamo come cittadini, visto che non vengono prese misure adeguate, a dover fare la danza della pioggia ogni anno sperando di poter avere un'aria più respirabile. Questa è la cosa peggiore, diciamo, dal punto di vista ambientale. Certo. Ecco, però il fatto che con la pioggia diminuisca la presenza di questo particolato significa cosa? Cioè, che cos'è che provoca questo inquinamento? Quindi le auto, i fumi, lo smog, oppure c'è qualcosa in particolare? Cioè, se c'è la pioggia che lo fa diminuire, fa pensare che forse non sia così semplice prendere dei provvedimenti. Cioè, se l'unica cosa che lo fa diminuire è la pioggia, i provvedimenti che sono stati adottati, targhe alterne, eccetera, hanno un qualche significato? Ma guarda, allora è importante sapere da dove viene l'inquinamento, che evidentemente viene dalla produzione, dalla combustione, dal bruciare idrocarburi in particolar modo, e quindi l'incidenza del trasporto su gomma in particolar modo è notevole. Parliamo circa, insomma, più o meno un terzo. Diciamo che banalmente possiamo dire che l'inquinamento dell'aria è attribuito a un terzo, forse anche un po' di più, un 40% al traffico, e quindi al traffico su gomma e automobile. Un'altra grande incidenza è quello del riscaldamento, quindi nel periodo invernale ovviamente il riscaldamento delle abitazioni, degli uffici e di quello che ci serve, insomma, ecco, per, da questo punto di vista. E un'altra parte invece sostanziosa è quella industriale, cioè quello che si brucia per produrre energie che abbiamo in casa, e tutta la produzione di beni che poi ci servono. Quindi la prima azione da fare ovviamente è quella di incidere nelle azioni che sono direttamente gestibili in maniera più semplice da parte di un'amministrazione, nel nostro caso regionale, cioè incidere, provare a limitare quello che è lo spostamento su gomma e quindi l'incidenza dell'inquinamento dal traffico automobilistico. Da questo punto di vista si possono fare molte azioni, si possono intervenire in molti modi. Le targhe alterne sono state nel passato un tentativo di provare a diminuire l'utilizzo dell'automobile, non tanto la produzione di inquinante. Abbiamo constatato che non sono certo quelle le modalità con cui si possa migliorare la qualità della vita e la qualità dell'aria ai cittadini. Poi le piogge, come dire, non sono le piogge che diminuiscono l'inquinamento, ma semplicemente lo depositano a terra, certo, questo particolato, perché ovviamente la pioggia, se il particolato sta nell'aria, la pioggia colpisce le particelle, soprattutto il PM10, che è il particolato, come dire, la quale concentrazione può essere dannosa per la salute umana, ma poi le particelle più piccole, quindi il PM2.5 ad esempio, che è un'altra, certo, particella ancora più come dire, nanoscopica e quindi ancora più dannosa per l'organismo, perché non siamo in grado di filtrarla, il nostro organismo non è in grado di filtrarla, che fortunatamente colpita dalla pioggia deposita a terra, e questo significa che abbiamo qualche speranza in più di non respirarla. Continuiamo a parlare di questo argomento a fra poco, ci fermiamo per un attimo. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Sono facile da accontentare. Tutto quello che mi serve è qui, tra le mani vuote, una 24 ore, dove tengo me e le cose di valore. Non è facile da sopportare, la morale dice, la coscienza sa. Chiudo gli occhi e il mondo fuori per sentire come corre l'aria, come scorre il mare. Facile da conquistare, credo ancora all'incantesimo, tra le stelle Dio e tra le persone, ma mi manca l'aria come mi manca il mare. Torniamo in linea con la rubrica Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di inquinamento atmosferico e lo stiamo facendo con Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Abbiamo visto che la situazione l'anno scorso è stata leggermente migliore, ma in realtà la qualità dell'aria del Veneto è stata bocciata. Si diceva che alcuni provvedimenti come le targhe alterne o la chiusura temporanea dei centri storici funzionano poco. Quali altre iniziative si potrebbero fare? Si parla, non so, di favorire la mobilità alternativa, per esempio. Beh, questo questo assolutamente è una delle strade da percorrere, che Legambiente da anni ripete essere una delle iniziative prioritarie da parte dell'amministrazione regionale, cioè quella di incentivare, migliorare e investire risorse sul trasporto pubblico collettivo, a partire da quello ferroviario, quindi ovviamente su rotaia, ma poi anche per il traffico, per migliorare e dare fluidità al traffico urbano con mezzi a metano, ad esempio, con autobus che possono girare nei centri urbani, evitando l'intasarsi dei centri delle città, che sono poi quelli i momenti principali della giornata in cui le emissioni di particolato, quando ci si trova intasati nel traffico, sono molto molto più incidenti. Soprattutto nei centri urbani, una cosa che ci tengo a sottolineare è che c'è la presenza, la compresenza non solo di automezzi ma anche di persone, e respirare particolato a altezza automobile, a altezza tubo di scappamento, è molto molto più dannoso che in altre situazioni. Un aerosol di smog, insomma. Assolutamente, purtroppo sì. Ecco, ma sono anni che in realtà parliamo di queste cose. È stato fatto qualcosa? Cioè, è migliorato nei centri veneti qualcosa da questo punto di vista, oppure siamo ancora sempre fermi? No, siamo assolutamente fermi, anzi noi come dire, i monitoraggi li facciamo molto spesso, o meglio, i monitoraggi vengono fatti da parte di ARPAV e noi controlliamo i monitoraggi che fa ARPAV, e si parla spesso di centri urbani, quindi dei capoluoghi delle città dove la qualità dell'aria spesso o siamo convinti essere peggiore, come anche i provvedimenti che vengono presi o sono stati presi nel passato, vedi le targhe alterne o le domeniche senza auto. Questo purtroppo è un ragionamento limitato rispetto invece all'emergenza del problema. Abbiamo un problema dilagante anche nelle aree che non sono nella provincia, che non sono i capoluoghi di provincia, ma sono i piccoli comuni. Pensiamo ad esempio a Spinea nel Veneziano, che si colloca in terza posizione nella classifica, diciamo, se dobbiamo fare una classifica, dei giorni di sforamento, con 65 giorni di sforamento nel 2014, con un giorno soltanto in meno rispetto a Venezia, che ne ha 66, insomma, nella sua peggior centralina. Quindi siamo in una situazione di smog dilagante, non solo nei centri urbani dove pensiamo si concentri il traffico, ma anche nelle aree, come dire, di certo, provincia, di periferia, e quindi va assolutamente affrontata con attenzione. Ecco, ultima domanda, abbiamo visto un po' la situazione riferendoci a dei parametri che parlano di sforamenti. Diamo per scontato che ci sia lo smog, ma non è che questi parametri siano forse un po' troppo rigidi e che quindi la situazione forse non sia così grave, oppure lo è? No, assolutamente, i parametri sono fin troppo permissivi, purtroppo, cioè quando parliamo di quota di 35 giorni stabiliti per legge di sforamento, parliamo di una soglia di concentrazione di inquinante superiore ai 50 microgrammi su metro cubo che si possono trovare nell'aria di ogni tipo di particolato, nel caso del PM10, ripeto, quello più famoso, più conosciuto e uno dei più pericolosi insieme al PM2.5, ma poi ci sono tanti altri fattori che, tra parentesi, stiamo analizzando, come gli ossidi di azoto, come l'ozono, insomma, che incidono anche questi nella salute umana e che stiamo monitorando anche noi, verificando, e a breve, a fine di questo mese, usciremo con un dossier con la presentazione anche di una nostra analisi rispetto a questi altri sforamenti. Ma ripeto, la concentrazione è fin troppo permissiva. Quando parliamo di sforamenti, di giorni di sforamento, parliamo di giorni dove troviamo una quantità di inquinante sopra il limite permesso dalla legge, e se il limite di legge ci dice 35 giorni durante l'anno al massimo, è perché non ambientalisti e non, come dire, semplici cittadini, ma medici, esperti e OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, piuttosto che Comunità Europea, ci dicono che quella è la soglia limite dentro la quale il nostro organismo è in grado di in qualche modo arginare il problema, il fenomeno dell'inquinamento poi della nostra salute, dei nostri polmoni. Oltre stiamo rischiando, e i dati sulla mortalità, sull'incidenza, su situazioni di emergenza tumorali piuttosto che altre forme di danno alla salute stanno aumentando, stanno continuando a emergere. La relazione è sempre più stretta e sempre più evidente tra la qualità dell'aria e della vita, ovviamente, dei cittadini con l'inquinamento atmosferico, e quindi bene iniziare a prendere veramente sul serio questi limiti e decidere come vogliamo, certo, risolvere un problema così grave per la salute, soprattutto degli esseri umani. Certo, assolutamente, e noi aspettiamo anche i dati di questo dossier poi per comunicarli in trasmissione ed eventualmente fare fare una seconda puntata dove approfondire anche altri parametri di questo appunto di inquinamento. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro, buona giornata. Continuiamo e chiudiamo la trasmissione con un paio di notizie. La Regione Veneto, per rimanere anche in tema di monitoraggi ambientali, ha sottoscritto l'accordo con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare per partecipare ai programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in attuazione della Direttiva Europea Strategia Marine proprio in materia di gestione e tutela dell'ambiente marino. Le attività di monitoraggio saranno di norma effettuate in ambito marino-costiero entro le 12 miglia nautiche e riguarderanno più tipologie, fra cui variabili chimico-fisiche, concentrazione di contaminanti, fito e zooplancton, rifiuti spiaggiati, habitat e biocenosi dei fondali, concentrazione di contaminanti nei sedimenti e specie invasive. Cambiamo argomento, carni bovine riprendono dall'Irlanda le importazioni degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti d'America infatti riapriranno progressivamente il mercato di importazioni delle carni bovine provenienti dall'Unione Europea a partire proprio dalla Repubblica d'Irlanda. Questo atto rappresenta l'atteso primo passo per l'abolizione del blocco americano che ha seguito la crisi della BSE negli anni 90 e lo ristabilimento delle normali condizioni di commercio. È importante ora che gli Stati Uniti aprano questo canale anche agli altri stati dell'Unione Europea e portino le loro pratiche di import in linea con gli standard internazionali. L'ultima notizia riguarda ancora l'Europa. Dallo scorso 1 gennaio l'euro ha sostituito il litas come moneta ufficiale in Lituania. La Lituania diventa quindi il 19° stato dell'Unione Europea ad adottare la moneta unica. Sono oggi complessivamente 337 milioni gli europei che ora utilizzano la stessa moneta. Anche per questa settimana è tutto, vediamo appuntamento con il quadrifoglio alla prossima, ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.